passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Io so, Parenzo, che tu vuoi difendere Rosy Mauro, anzi vorresti difendere, ma forse non ce la fai ancora. C'è il tuo moralismo, aspetta, il tuo moralismo, il tuo essere giustizialista non ti consente di difendere Rosy Mauro, perché l'hai messa a rogo anche tu in questi giorni, dimmi la verità. Ma io prima di vedere le carte dell'inchiesta, certo, avevo dato il mio anatema nei confronti della signora Mauro. Adesso ci hai ripensato? Dal signor Vespa, l'ho vista dal signor Vespa, l'ho vista vilipesa, l'ho vista massacrata dai suoi, e dico: Rosy Mauro, libera! Firmiamo per liberare Rosy Mauro. Ma non è stata arrestata, è già libera, cioè. Beh, insomma, per poco, però insomma, liberiamo Rosy Mauro. Sosteniamo Rosy Mauro. Rosy Mauro, resisti, non ti dimettere. In realtà, che cos'ha Rosy Mauro di cattivo? Rosy Mauro è una terrona diventata leghista. Sì. Questa è la realtà. Ha una faccia brutta, un po' da strega. È inguardabile, diciamolo. Sì, abbastanza inguardabile, sì. Però poi è la nemica di un altro gruppo di potere della Lega. Ed è il rappresentante massimo del cerchio Bancomat. Cerchio magico, scusa, ho sbagliato. E dunque per questo la vogliono al muro gli altri leghisti. Non c'entra nulla le questioni dei soldi interni, che non sono provati. Non è neppure indagata la signora Mauro. Ma sei diventato improvvisamente... Ma no, non ho il prosciutto negli occhi, cioè la signora Mauro... Comunque, in questo momento... che cosa sta accadendo? Qualcosa di strano. Quelli che prima dicevano che Renzo Bossi era un grande statista, o che comunque sarebbe stato... Questo non l'ha mai detto nessuno, grande statista. Comunque no, c'era chi diceva che era l'erede, il principe designato, eccetera. Adesso giù botte pure a Renzo Bossi. Per esempio Boso, ve lo ricordate Boso? È stato ospite anche da noi. Come no? Quello che vuole mettere gli extracomunitari in un ghiacciaio. Sì. In un ghiacciaio. Il quale dice adesso: Renzo è un gran coglione di ragazzo, sentite. Che effetto le ha fatto vedere quel filmato in cui il figlio di Bossi, Renzo, prende così un po' di banconote dall'autista? È un gran coglione di ragazzo. Boso, Boso. Ferrara dà baci e invita a cena Rosy Mauro, sentite. Un bacino a Rosy Mauro, vicepresidente del Senato, sempre pronto ad invitarla a cena quando lo desiderasse, perché ieri sera da Bruno Vespa si è scoperto che il grosso della faccenda non era vero. Allora, immaginatevi di essere messi sotto il riflettore e investiti nella vostra funzione pubblica e immagine pubblica da un treno che si chiama macchina del fango e della diffamazione ai danni di chiunque abbia dei finanziamenti da parte dello Stato. È una cosa scandalosa, io stesso ci avevo creduto, sembrava tutto oggettivo. Beh, diciamo, non è che è stato provato il contrario, è la versione di Rosy Mauro contro la versione della Procura che dice che soldi della Lega, cioè nostri, soldi nostri, sono usciti per spese. Certo, se fosse vero, caro Parenzo e caro Klaus Davi, che saluto, buonasera. Buonasera. E buonasera Milano, buonasera Milano, in diretta dal centro Porsche. Faccia come Madonna, ciao Milano. 800 24 00 24 per chiamarci, questa è la Zanzara. Se fosse vero che abbiamo pagato, se fosse vero che abbiamo pagato, cari ascoltatori della Zanzara, 9.901,62 euro per un intervento alle adenoidi, delle emorroidi, di Sirio Bossi, di Sirio Eridanio Bossi, beh, io quello mi incazzerei abbastanza, sì. Mi incazzerei. Ma no, perché se capisci, una però cosa è il sindacato padano che non esiste. Soldi ben spesi per le adenoidi del signor. Cioè, ma non si è rifatto una meglio quello che comprare una laurea, no? Almeno uno se cura, aveva un male, l'ha curato, no? No, meglio quello della laurea. C'è anche misoginia, eh? Cioè, è anche presa di mira perché è una donna. Ma no, Eridanio Bossi non è una donna. No, vabbè, ma Rosy Mauro, dico, è presa di mira pure perché è femmina. Paolo Mieli, non si tratta così neanche un boss mafioso, sentite. Rosy Mauro. Io trovo orribile quello che ho letto, sentito su Rosy Mauro. Non si tratta così neanche nessuno, non è lecito trattare così neanche un boss mafioso. Un posto che non c'è, dove niente. Beh, rimangono il boss mafioso non è un aiuto a Rosy Mauro comunque. cioè Rosy Mauro ha fatto delle cose che sono a dimostrare, ma la storia dell'amante di Rosy Mauro, fosse stato un altro politico più, ma chi ti ha detto che l'amante, scusa, presunto amante, ah, secondo, no, ah, alcune, ecco, logiche salottiere, l'amante di altri politici del Gotha di un certo genere non sarebbero usciti, insomma, prendiamoci chiaro, cioè questa è presa di mira perché è leghista e perché è donna e perché è un po' terrona diventata leghista. Vabbè, ma andiamo a sentire sempre Borghezio, che mi rimette di buon umore, una delle frasi del giorno, di questi giorni. C'è cessione. Però combattere contro Roma, ma qualcuno dice che ormai siete uguali a quelli che combattevate. Ecco, dica a quel qualcuno che dice che noi siamo uguali di andarsela a prendere nel culo. Sobrietà. Chiamiamo qua una persona, vediamo se ci risponde. Chiamiamo una persona. Le telefonate della Zazzara. Chiamiamo una persona, voglio vedere se ci risponde. Primo squillo. Secondo. Ciao, sono Maurizia. Sai che differenza passa tra il culo e Monti? Ma che è successo? La segreteria telefonica è sulla Paradiso. Ma hanno sbagliato numero, No, sono Maurizia, ha detto. Ciao, sono Maurizia. Possiamo risentire per cortesia? No, dopo. Bene, 800 24 0024. Facciamo un'inchiesta, vediamo. No, se allora sentiamo Vendola che dice che sono intervenuto perché vincesse il merito nei concorsi. Vendola, sono intervenuto perché vincesse il merito nei concorsi. L'avesse fatto qualcuno dell'altra parte politica, certo, lo avrebbero triturato così. Sentiamo. Io posso dire con assoluta serenità di essere sempre intervenuto affinché i concorsi potessero essere fatti all'insegna della trasparenza, avere una platea di partecipanti vera e potessero veder trionfare il merito. È un po', diciamo, strano il fatto che in Puglia vincono i più bravi. Questo dovrebbe essere un titolo di merito. Ma ha fatto riaprire quel concorso, sì o no, signor Vendola? No, questa so, è l'unica domanda. Non interessa, so solo che, ripeto, se fosse successo a qualcun altro. Affitto, per esempio. Affitto. Vabbè, certo. Per esempio, affitto. Ieri è intervenuto alla Zanzaro un signore che si chiama Baccini, del PDL, dei Cristiano, non so che cosa, il quale ci teneva a dire che siccome prende due stipendi, però non voleva utilizzare la parola stipendi perché gli dava fastidio. No, due indennità, ha detto. Sentiamo. L'informazione che si dà ai cittadini sembra che io prendo 2-3 stipendi, non prendo il doppio stipendio. Questo istituto non è uno stipendio, è un'indennità che, proprio perché sono parlamentare, l'ente che io presiedo risparmia una parte consistente. Sì, risparmierà pure, però non c'entra nulla, c'ha due stipendi. Ci due stipendi, due entrate comunque, pubblici. Due entrate. Ne rinuncia uno, no. Prende meno, dice lui. Va bene. Che abbiamo? Os Francesco Danovara. Ma come ci abbiamo? Che abbiamo? Ah, sì, però deve mettersi la cuffia, dottor Albertini. Buonasera a tutti. Intanto sentiamo Francesco Danovara. Gabriele Francesco Albertini, già sindaco di Milano. Applauso più lungo, per cortesia, grazie. Oh. Regime Albertini, scusi un attimo, però lei ho saputo, io le voglio molto bene, no? Lei lo sa, no? Che lei sta cosa uscendo. Ringrazio, non esageriamo però. Perché no? No, perché già proprio con Bossi ho avuto quel problema sulla mia presunta omosessualità, ho dovuto fare lo scherzo pesce di nome Vanda. Bossi una volta disse com'è che cos'è, no, che la soprannominò Albertini, quindi lei è stato vittima, scusi, lei ci ha anticipati, lei è stato vittima dell'omofobia leghista pur non essendo gay, sì, sì, o, ecco, sì, o essendo bisessuale, sì. Tenderei a essere plurieterosessuale, poi però essendo sposato, però cioè, è stato vittima, certo, vittima dell'omofobia leghista, giusto? Sì, moderatamente, perché si è trattato di un qualche battuta che poi mi ha permesso però di tirare in porta, di fare un gol eccezionale, cioè, con lo scherzo, pesce di nome Vanda, il migliore della mia vita. Com'è che disse Bossi quando parlò della sua presunta omosessualità? Ma lei però c'ha un po' il physique du role, devo dire, sì. Della vecchia checca, no? No, no, però qualche movenza ce l'ha. Adesso mi attaccheranno adesso, tutti adesso. Anche su internet, no. Sa cos'è? Quelle mutande in cashmere, quelle mutande in cashmere che si mise, no? con tutto quel, no? Poi non ha mai tutto quel cotone lì, non ha mai voluto far vedere le sue donne. Anzi, ha querelato il giornale perché aveva mostrato una sua fidanzata. O fidanzato? Sì, no. Rifaccio lo scherzo. Traffico, torniamo subito. Attenzione che traffico, sono vendicativo. C'è il traffico, c'è il traffico. Canti con noi, Albertini. No, sono stonato. Ma la conosce questa? Questa meravigliosa sono composizione. Sono andato a vederla musicale. Su internet, sì, sono no. andato a vederla sì, su internet. Culi nudi di Pierre, sì, eccetera. Io mi scordo sempre il nome, come si chiama? Mosca Giuri. Ma il nome qual è? Mosca Giuri, Pierre, qual è? Non lo so, dire, però, quello lì insomma. Allora, Bossi una volta disse adesso facciamo candidata. un grande concorso. Chi imita meglio Bossi? Chi imita meglio Bossi? Perché allora, mi espone lei, a questo sì, ludibrio? Sì. L'applausometro. Qua siamo un professionista. Ma che giornalista? È il mio secondo lavoro questo, non si sa come va il primo. Scusi, allora, Bossi che dice Albertini? Come fece tu? Devo fare massimo superare da qualche altra cosa, ma questo romanico Albertino lo tocco più. Mi ha fatto quello scherzo del piscino bevante, adesso lo posso toccarlo, lo lascio in pace. La Lega è forte, adesso è questo complotto che si è tirato addosso pure. Il complotto. Il regime c'è cioè, Maroni non è contro il merito, ha fatto la corrente sua, però ho preso un po' d'aria fredda, sono stato male. Parenzo, vai, non fare il buffone, dai. Amico, ho sbagliato a candidare Renzo. Ho sbagliato perché è stato un po' un pirla. Dovevamo un pirlone, ci sono a fare la trozza. Lo dico io nell'acquario. Lo dico io che è un pirla. Ho detto nell'acquario. La trozza. Dovevamo piazzarlo Renzo, non in regione Lombardia. No. Gli avevamo messo al sole 24 ore nella piscina, a guidare il sole 24 ore con via Napoletano. Napoletano, il direttore del sole, lui si chiama Napoletano. Dirigente dei media della Lega. Quasi il sole 24 ore. Dirigente dei media. Vabbè, chi vince? Parenzo. Beh, però c'è un'altra gara che voglio fare tra di voi, gara che voglio fare tra di voi è quella di Tremonti. No, in realtà Parenzo no, perché non lo imita. No. Però vada con Tremonti, che in questi giorni viene accusato di essere addirittura di essere stato quello che ha consigliato l'investimento in Tanzania. Lei ci crede? No, però volevo raccontare un'altra. Siccome mi avete già gratificato dello spot dell'inizio della sindrome di Zeus per l'argomento orizzontale. La patonza deve girare, quella cosa lì. Quella mitica. Ricordiamola sta cosa. Sì, ricordiamolo sempre. Berlusconi e D'Agnelli sono uno di fronte all'altro. No. Albertini, modestamente, e Berlusconi sono uno di fronte all'altro. Sono a colazione ad Arcore. Telefona Agnelli mentre siamo a colazione. Interrompiamo il nostro dialogo e parla con Agnelli. Battute brevi, cose di lavoro. Finisce la conversazione e allora il commento su Agnelli, grande personalità, uomo d'impresa, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto confessa Berlusconi che si erano confidati sull'argomento donne, diciamo, e avevano scoperto di avere goduto delle grazie della stessa signora. Come mai? O signorina, non mi ricordo, non hanno fatto il nome, quindi sono dei veri gentili uomini. Certo. Non si sa se negli stessi giorni o negli stessi anni. Comunque, e a un certo punto Berlusconi riferì. In circolazione la signorina? O... Non ho chiesto il numero di telefono, non lo so. E Berlusconi riferì che in quell'occasione l'avvocato Agnelli uscì con questa, dopo aver scoperto questa situazione che lo imbarazzava un po', perché siccome disse la patruzza deve girare. Beh, rassegnato al fatto che... Allora, ecco. Scusi, no, però aspetti, io voglio dire, lei è vero o no che ha questi maledetti, io sono avvelenato con questa cosa, questi maledetti permessi per circolare sulle corsie preferenziali e può parcheggiare dove diavolo vuole per Milano? È vero, sì, ma non solo io. Perché? A che serve? A che serve? Ma allora, se è un privilegio inaudito. No, un momento. Allora, io sono il responsabile, io nel senso che sì, l'amministrazione in carica era la mia, la firma. No, allargare. Un momento, lasciatemi. No, beh, aspetta, adesso non ci io devo spiegare, perché prima della nostra ordinanza non c'erano telecamere, non c'era nessun controllo delle corsie preferenziali e gli accessi, quelli veri, non quelli consentiti, avevamo stimato essere intorno ai 20.000. Quindi le corsie preferenziali erano, diciamo, come potrebbe essere a Napoli, no? Fermiamo in quel uno sulla corsia preferenziale e dice: ma lei è sulla corsia preferenziale? E certo, la preferisco, è una cosa così. Quindi stavano tutti nelle corsie preferenziali. Allora noi abbiamo messo le telecamere, sì, per cui il 100% di infrazione è sanzionato. Però avete anche dato pass a giornalisti? No, non abbiamo regolamentato, perché prima era la telefonata. Io c'ho manco la patente, cazzo, perché mi lasci finire. Ma perché deve andare più veloce degli altri lei? Esatto. Perché deve passare sulle preferenziali? Allora, io no, per se si considera il lavoro, perché è un lavoro, comunque la funzione istituzionale, un consigliere comunale, un consigliere regionale, un deputato, quindi è un diritto, una funzione, una funzione utile alla collettività, e devono andare più veloci sulle corsie preferenziali, possiamo considerare appropriato che quindi sia un diritto, agevolato, un diritto di casta, no, non un diritto, allora è una rinuncia facoltà. Allora rinuncia, no, io non rinuncia, no, ma non c'è nessun motivo di rinunciare, cioè questa Ma perché può parcheggiare ovunque? Prendiamo atto. Perché per le ragioni che sono comprensibili, per i contatti, ma noi viviamo di contatti. Facciamo con le persone. Un referendum. No? Io non vivo di contatti con le persone. Scusate, io ho preso nel primo mandato 144.000 voti persone che hanno scritto Albertini. Quindi devo avere dei contatti con le persone. Ma la politica, quindi è per il mandato popolare. Io poi guardi, la preferenza non è che la trovo col parcheggio riservato. Io peraltro uso anche l'MP3, per cui sono tre ruote, non sono quattro. Ma lei sta dicendo che il passi è legittimato dal voto democratico, scusi, ha detto questo? No, ha detto questo. Io sto dicendo che le funzioni istituzionali non sono degli argomenti da banalizzare o da demonizzare, come state facendo voi. No, ma lei dice un politico ha diritto ad avere il pass. Io non parlo di diritti. Questo è importante. Non parlo di diritti, parlo di scelte. Lei ha detto quando piove. Un'amministrazione, mi lasci vedere, adesso sta travisando il mio modesto pensiero. Quando ci sono delle situazioni che possono essere considerate, io considero le funzioni istituzionali, poi il fatto che si diano ai giornalisti o altro non lo so, perché allora dovrebbero darle a tutti i giornalisti, se si considera la libertà di stampa un valore, e invece li danno solo ad alcuni, e questo non lo so quali criteri hanno utilizzato. Quelli che stavano simpatici alla Moratti, io non lo so. Comunque il criterio è che noi avevamo 20.000 accessi non controllati. Ho diritto perché sono diventati 4.000 sanzionati al 100% le infrazioni. Solo gli accessi alle telecamere e invece i pass darli soltanto a chi davvero ne ha bisogno, perché abbiamo considerato che fosse una funzione utile alla collettività, la funzione istituzionale. Ma l'europarlamentare, tra l'altro, sì, ma sono eletto nel collegio di Milano, quindi come tutti hanno diritto ad avere, secondo le ordinanze, hanno diritto ad avere, nel senso che gli è consentito. Posso dire che è un privilegio? Si può dire che è un privilegio? Ma non è un privilegio, hanno diritto ad avere perché c'è un'ordinanza che consente questo diritto, non che sia un diritto in assoluto. Guardi che se lei vuole fare, però l'ha detto che è un diritto, se lei vuole fare il gesuita, guardi che la non sono gesuita, sono calvinista. Ecco, no, guardi che si vuole precisare, non ha scampo, concede paro, nega sepe, distingue sempre, l'abbatto, non ci provi, si vuole sottilizzare. Allora, non è questa comunque la questione. Perché lei non rinuncia a questa cosa qua. Vabbè, ma non è una questione di rinuncia, è un'opportunità, è una comodità. Se c'è, la utilizzo, se non c'è, non la utilizzo. Io, se dovessi decidere io come l'ho deciso allora, la lascio con me. Benissimo. Perché non c'è nessuna congestione nelle corsie preferenziali. Insomma, oddio, questo non è vero. No, non pubblicità. C'è nessuna congestione nelle corsie, c'è fuori. Pubblicità. Eccoci qua di nuovo in diretta da Milano, Centro Porsche, buonasera. Eccomi, sono ancora tutti qua. Ben ritrovati alla Zanzara. titoli del TG3, poi di nuovo Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, europarlamentare PDL con noi. Come farebbe Villaggio? Mi dica subito, mi faccia subito qualcosa. Sì, Paolo, in questa situazione, come la commenterebbe la situazione politica Villaggio? Mi dica subito. Il Fantozzi. La costernazione della folla è totale. Contro la classe politica, Fantozzi pensò di fare una rivoluzione, ma venne fermato alle soglie del Parlamento e messo nelle segrete di Arco. Ma è meglio come imitatore o come politico? Questa è la grande cattiva. Ma sono mai stato un politico io. Beh, insomma, amministratore di condominio. Ma chi, 20 anni ormai che fa politica? Ormai non è dal 97. Dal 97. È tempo di ritirarsi, no? Sì, ma nel 64 finisco col parlamentare europeo. Con tutti i 64. No, 64 io. Con tutti i poteri forti che ha difeso, insomma, no? Qui a Milano. Klaus Dani, no? È un amico, no, ma anzi mi scuso per l'aggressività di prima, ma era scenografico. No, era una sceneggiatura. Però i poteri forti di me. Titoli del TG3. Belle macchine. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Consiglio federale della Lega in via Bellerio. Si discute sulla data del congresso e sulla pulizia interna. E arriva anche Rosy Mauro. La Guardia di Finanza in 7 banche per esaminare i conti del Carroccio. Bel sito al centro dell'indagine. Al TG3 il sondaggio sul popolo leghista. Altri 13 milioni sospetti nei conti della Margherita gestiti dal tesoriere Lusi. È quanto emerge dai dati di una società di consulenza indicata dal partito. E per i soldi ai partiti si parte in salita. Non passa l'emendamento sui controlli. Si procede con una proposta di legge. Rinviato il taglio dei finanziamenti. Caso Ruby, la Banca d'Italia avrebbe segnalato un pagamento compiuto da Berlusconi a Nicole Minetti, testi al processo, e girato il giorno dopo ai suoi avvocati. La disoccupazione in Europa aumenterà ancora, avverte la Banca Centrale Europea. L'economia non cresce abbastanza, risalgono i tassi dei BTP. Ed esce domani Diaz, il film che ricostruisce i drammatici eventi nella scuola di Genova nella notte del 21 luglio 2001, durante le proteste contro il G8. Conto, cari ascoltatori della Zanzara, caro Albertini, Klaus Davi, David Parenzo, siamo tantissimi popolo qui oggi. Della Zanzara, vi rendete presente. Conto di una cosa? Che uno si fa un mazzo così per liberare un signore, questo Bosusco, no? Dai maoisti. Si sì. Fa un tarallo così, soldi, tempo, impegno internazionale. E sentite questo che cosa ha detto oggi, come poi si è scusato, ma le scuse non valgono. Cosa ha detto come prima intervista? Bosusco, un tale Bosusco, uno con i capelli tutti lunghi. Fatemi capire, d'accordo. Comunque sentiamo. La vedo un po' dimagrita. Vabbè, questo è dovuto ai 28 giorni di vacanza pagata. E purtroppo il cibo era quello che era. I maoisti hanno cercato di darmi il meglio che potevano, però purtroppo date le condizioni della giungla, più che tanto non potevo mangiare. 28 giorni di vacanza pagata. Torna nella giungla, amico mio, se ci stai così bene, scusa, difendere i maoisti, ma che vuoi? Poi ha detto anche che i maoisti hanno la loro dignità, vogliono la giustizia. Maoisti. Ma di che stiamo parlando? La sindrome di Stoccolma, si vede che si è trovato bene con loro. Senta, Albertini, ma la Lega abbiamo fatto male allora a fare tutta l'operazione? Cioè uno così va rimandato lì, che dice? No, poveraccio. Cioè era meglio se lo lasciavano lì. Cioè. Ma no. Viene qua, gli lavano i capelli, glieli tagliano, lo rimandano dai maoisti. Una bella rapata zero. Però ci starebbe bene. Una rapatina zero. Sì, no, per questioni igieniche, sono tutti i pidocchi dei maoisti. No, ma per i pidocchi di maoisti. E in giù, le cimici, parassiti. Lei quindi lo fa per igiene. No, anche perché essendo, insomma, c'è un po' di invidia per quelle cose. Però assomiglia un po' a chi? Lei è molto più bello, però un po' assomiglia a Bosusco. Sì, sì, sì, sì. Con capelli lunghi. Scusate, è vero o no? Lui è più bello, anche perché qua vicino. Bosusco, Cruciani come Bosusco. Cruciani è un dandy. Una vaghissima somiglianza, non voglio offendere. Ma quale vaghissima? Lei non l'ha nemmeno visto. No, l'ho visto. L'ho visto. No, è sicuramente parente, si vede anche no, dai tratti. No, una certa somiglianza. Sì, scusi, allora Berlusconi avrebbe dato, anzi ha dato, 127.000 euro negli ultimi mesi a due signorine, anzi no. A tre signorine, le gemelle De Vivo e la signora Minetti. Qualcuno dice che sono testimoni, Ghedini dice che è tutto normale. Secondo lei è tutto normale? non so, si vede che è un uomo generoso e poi, come dicevo prima, la pazienza deve girare. Anche in questo caso. Beh, continua a girare. Fa venire in mente questo, continua a girare. Fa venire in mente questo pensiero. No, no, io non faccio, per carità, non faccio. Però, scusa Albertini, ma... È un'associazione di idee, non, ma niente di concettuale. Dunque, lei non fa nessuna impressione questa cosa. Fatti di Berlusconi, fatti privati di Berlusconi, o no? Beh, sì, non credo che siano soldi del partito, insomma. No, beh, no, anche perché le due visto cose... Che siamo ma è morale pagare delle ragazze etico? Secondo lei, per andarci anche a letto, insomma, per fare all'amore, come dire? Secondo me sì, per esempio. Ma, insomma, secondo lei? Non mi permetto di fare osservazioni su questi argomenti. Ma mai pagato una donna per fare l'amore? Ma a volte sono stato pagato. Come no, è stato pagato? Ma no, sto scherzando. Ma, no. Ma in gioventù, dice, io ho tirato fuori 50.000 lire perché sono andato in un bel bordello. Non mi fate fare. No, ma dica la verità. No, sono cose che riguardano poco male pagare, la no? sfera privata e quindi... ma scusi, ma non c'è niente di strano. Brava, c'è niente... Danielina, brava, sei diventata moderata, brava. Ti porterò a fare un giretto sui mezzi lingi. È arrivata a Daniela Santacchè, cercavo di... Di ricordare. Ma chi è a casa? Non lo sa che è arrivata la signora Santanchè. Non lo sa, non lo sa. Siamo con il governo Monti, quindi non facciamo cose troppo sbagliate. Ma brava Danielina, brava. Questa è la russa, sarebbe? Sì, insomma, un po'. Scusate, sono dilettante. Quindi possiamo dire: ho pagato da giovane una donna per fare un po' di sesso. Come inizio? Possiamo dirlo? Diciamolo con tranquillità, serenità. No, guardi, una cosa che non posso smentire, è che come tutti, insomma, forse una qualche esperienza di autoerotismo, quella ci sta, questa la posso dire, la posso dire. Ma quello ancora oggi però, che c'entra. Anzi, quando c'era stato la famosa questione del Gay Pride, no? Sì, famoso Gay Mi Pride. Mi permetto di raccontare un episodio per alleggerire il tema di Berlusconi. Io non volevo fare il Gay Pride, insomma il Gay Pride, no, perché non volevo fare. Allora, io ho fatto una teorizzazione, dico, ma il patrocinio, cioè il Gay Pride, libero, però il patrocinio era. Non voleva il patrocinio. No, il patrocinio, perché si dà il patrocinio? O perché è una... un'attività, un evento, un'istituzione, un qualcosa, diciamo, che è da considerare un esempio per tutti, una best practice o della vita o dei valori, oppure perché tutti ci riconosciamo. Allora, nel primo, quindi, non credo che l'omosessualità sia un esempio buon esempio. Il secondo, dove tutti, allora dicevo, a questo punto tutti, dico, facciamo l'Onan Pride, perché facciamo anche il Papa, l'Onan Pride, almeno una volta, anche il Papa credo che, insomma, anche per una volta il Papa? Io penso a tutti, insomma, io penso che almeno una volta un atto di autoerotismo l'avranno fatto. Io credo che almeno una volta. Ma cosa applaudite? Ha detto una cosa gravissima. Anzi, ci accuseranno di genere. C'è una barzelletta. Secondo lei l'ha fatto Ratzinger. Secondo lei astrattamente un momento, è vero che non è Radio io Maria, dico però almeno una volta anche i presenti, almeno vabbè, una ma volta quello sì, ma quello è scontato, ma che c'entra? Non vi credo, se ma almeno una volta non avete fatto un atto di autoerotismo. Ma lei ha detto il Papa, capito? No, dico in generale, non parlo dell'attuale il principe della Chiesa, il principe della Chiesa. Io dico che tutti almeno una volta, tant'è che spero appunto che non contino quando c'è la Valle di Gol, sarebbe un grande evento. Però mi dico una cosa, la Lega pare che voglia fare pulizia, bisognerebbe fare pulizia anche un po' nel PDL, sì o no? Lì si sono dimessi la rosa. Lì in qualche modo, insomma, lo scopare è un'attività che credo sia praticata. Dove dice? Nel PDL. Nel PDL, cioè, bisogna fare questo gesto per il doppio senso. Ma è una cosa clamorosa. Ma anche in regione bisognerebbe scopare un po', in regione Lombardia. Ma così. In regione credo che si pratichi questa cosa. Credo. Ma in che senso? Come ma nel senso credo. Della pulizia, insomma. Nel senso. Ma però sta parlando non forse, si vede la faccia per radio. Sta parlando forse a Sia la no, guardo... punto di domanda, forse. Mi è caduto l'occhio sulla Santanchè. Ma no, ma per la pulizia, non per scopare, per la pulizia. Ma Albertini! Per la pulizia. Era acqua questa, scusi, eh. Scusi, però. Allora bisognerebbe fare pulizia. Lei ha detto lì la scopa si utilizza per altre, si scopa sì. per altre cose. Nel PDL diciamo. Una Nel bella PDL. Scopata bisognerebbe dare. Aiutatemi, qua c'è un attacco concentrico. Mi vogliono far dire cose che neanche penso. No, ma diciamo, che non ho mai fatto. Diciamo delle cose molto semplici. La signora Rosy Mauro non indagata, il partito chiede la testa della signora Mauro. Nel vostro partito, milanese, bosentino, Verdini, e chiedo scusa se dimentico qualcuno, perché la lista è piuttosto lunga. Chiedo scusa se dimentico qualcuno, sono ancora tutti là. Bisognerebbe un po' scopare anche lì? O no? Ma adesso questo verbo non so, si presta dei doppi sensi, forse no, anche fin troppo praticato. Ma lei fino a due secondi fa. Ma l'ho limitato a quella circostanza, non voglio raccontare. Vabbè, allora bisognerebbe fare un po' di pulizia, un po' di pulizia anche l'ha fatta anche lì o no? Ma sì, ma sì, no, sì. No, ma va bene, va bene, ma da tutte le situazioni, non solo ma l'ha già detto più volte, sì, tra l'altro. Sì, bisognerebbe fare un po' di fare un po' di pulizia. Ma la scopa anche da noi, anche noi con le scope. Perché non si mette lei con una bella scopa? Albertini con la scopa. Bellissimo. Ma l'ho anche fatto da sindaco, non nel senso che ho scopato, nel senso che ho usato ma la scopa. Ma Verdini lo scoperebbe fuori o no? No, questa adesso buona, non mi fate dire queste cose. No, non mi fate dire. Non mi fate dire. Io non voglio personalizzare. Dell'Utri lo scoperebbe fuori o no? Non vi seguo nella personalizzazione. Come non facciamo politica? Se volete un'opinione su argomenti generali, sì, ma non voglio personalizzare. Questo lo trovo di cattivo gusto. Però bisognerebbe utilizzare un po' la scopa anche dal PDL. Questo si può dire. Un po' di pulizia fa bene a tutti. Fa bene a tutti, anche al PDL. Gli elettori del PDL lo apprezzerebbero molto. Penso di sì, penso che sarebbe apprezzabile, sì, potrebbe essere. Cioè gli elettori del PDL apprezzerebbero un'operazione come quella che ha fatto la Lega? No, beh, ma almeno una parte di elettori sì. Sicuramente. Penso, ma questo forse nell'assenteismo al voto c'è anche, non parlo solo del nostro partito, sì. ma di tutti i partiti, c'è anche questo atteggiamento di discredito che potrebbe essere... ridotto con una bella operazione di sì con una selezione di una pulizia con la scuola penso che ci sia. Vabbè, questo ma non, guardi che non Berlusconi non è che viene adesso la rimprovera, non è che l'hai cura. No, io guardi non ho mai avuto problemi a pensare. C'è un regno, quello della propria imbecillità, la mia in cui ciascuno può sentirsi re, quindi non ho mai avuto problemi di non esporre il mio pensiero neanche con Zeus. Allora, Alfano, è stato Alfano a dire il partito degli onesti. Beh, tutti sono guardati intorno e ho detto, ma come partito degli onesti? Ma di che cazzo sta parlando Alfano? No, adesso non esageriamo, non sono tutti così. Ce ne sono di tutti i tipi. Domanda finale. Allora, Berlusconi è caduto, Bossi è caduto, si può dire sono caduti due imperatori, si può dire, no? Beh, sono due personalità. Siamo in un'altra epoca, no? Straordinarie, certo, che hanno fondato due partiti, che sono rimasti al governo. Sono caduti due imperatori? Beh, caduti, insomma, hanno dei grossi problemi, certo. Insomma, è diventato democristiano all'improvviso. Borsa, no, grazie a Gabriele Albertini, grazie. Bene, torniamo in diretta, 800 24 00 24. Avete sentito dal giornale radio che Rosy Mauro è stata espulsa all'unanimità dal Consiglio federale della Lega Nord. Una brutta giornata. Ma perché una brutta giornata? Mi dispiace, scusa. Perché la signora Mauro è stata presa di mira da tutti. Bossi gli aveva chiesto di dimettersi dalla vicepresidenza del Senato, non c'è un'indagine, non c'è neanche un avviso di garanzia. Io sono ferreo con chi viene attenzionato dalla magistratura, ma con la signora Mauro, che ha l'unica colpa di essere invisa al suo stesso partito e alla maggioranza del suo partito, cioè agli uomini di Maroni, devo dire che se questa va in televisione, dice che non ha rubato, dice che non ha preso la laurea ed è in grado di dimostrarlo, io le devo dare fiducia, perché io ho una pazza scatenata che davanti a milioni di italiani. Penati che non si è dimesso, che non è indagato, Emiliano che non si è dimesso. Si è dimesso dalla vicepresidenza del Consiglio regionale, Penati, la informo di questo. Ma certo, però non dello stipendio, perché continua a prendere i soldi come consigliere regionale. E intanto è con noi Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera. Cioè, è divertente che Daniela Santanchè è diventata adesso giustizia lista con gli altri, no, con i vostri, ma assolutamente milanese, Verdini, Raminetti, non avete detto nulla, ha cambiato spacciatore stasera. Va bene, non sappiamo se altre sobriamente non avete detto nulla. Non sappiamo se si sia dimessa, cioè se abbia se abbia rifiutato, se abbia respinto ancora una volta la richiesta di Bossi di dimettersi da vicepresidente del Senato. Comunque, insomma, è stata espulsa dalla Lega Nord. Bene, qualche ascoltatore poi con Daniela Santanchè. E invitiamola come opinionista fissa alla Zanzara. Andiamo, Giuseppe, dalla provincia. Ma chi? Editorialista della Zanzara, Rosi Mauro. Bellissimo. Una cosa meravigliosa. Sai. Giuseppe, già per lei aver vicino una donna sarebbe un fatto eccezionale. Io, lei, e quindi vicino. Voglio perché dire, farebbe benissimo. Come va, Lucio Sallusti? Oh, ma... Ma interessa a tutti quanti. Beh, molta gente. Ma lei impari a riprendersi quel senso del pudore, dell'intimo, dell'amore, non a mettere tutto in piazza. Tutto, tutto, invece io rivendico il diritto di non parlare. Però io non sono perché purtroppo, voglio dire, c'è chi fa il suo mestiere e aspetta fuori dalla porta di altre parti. In un parco. Allora? Lei non ha mai baciato nessuno, mi sì, fa un po' certo, pena se non l'ha fatto. Ha baciato anche lei, scusa. No, ha baciato Klaus Davide. Ma baciatevi un po' di più, così state calmi. Perché vi vedo proprio che avete questa tempesta ormonale schiacciata, date sfogo al vostro ormone. Però no, scusi, l'ha introdotto Parenzo, io non c'entro niente. Cruciani, lei è un po' per bene, con quella camicina bianca mica vuole stare con questo, con questa cravatta rossa che non allora, mi dà fastidio. Però scusi un attimo, però dato che l'ha introdotto Parenzo questo argomento che non interessa a nessuno, devo dire la verità. Infatti, però, quindi possiamo ha passare una sua, oltre, ha una, no? Sua, una sua, come dire, no, importanza mediatica. Vogliamo ufficializzare questo fidanzamento, sì o no? Continuate cose che, vogliamo... le ripeto, sono intime. D'accordo. Ma anche lei, ma io le vengo a chiedere con chi è stato ieri sera, quale donne sposate lei corteggia. Beh, sposate nessuno. No, voglio dire. Beh, qui entriamo su un terreno minato, c'è stata anche, camminiamo su un terreno. Però vogliamo ufficializzare questo fidanzamento? No, io non ho niente da ufficializzare. Sono fidanzata con Mario Cervi. C'entra Mario Cervi? Fondatore del giornale sono Cervi. Poveraccio. E quindi? No, direi. Con lei sarebbe una mission impossible. Non ci riuscirei proprio, nonostante la mia carica, lei con lei non ce la potrei mai fare. Non le tiro proprio, dice, non le piaccio proprio fisicamente. Ma da nessun punto di vista. Ma è un problema fisico o mentale, secondo lei? No, per me mentale. È proprio che mentale non ce la farei con lei. Mentale non c'è idea. Non è bello brutto. Non è bello brutto, non è questione di bello brutto. Tu è tutta una questione di testa, no? E lui è così, poi secondo me ha delle tendenze che lo portano altrove. No, se dovessi proprio qui scatta la pena per diffamazione. Vabbè, mi querelo, non ho più una mente. La lista è lunga. Ma perché, che male c'è? Le volete parlare di cose che io vi dico da mesi e da anni che dobbiamo capisco che per lei è un'emozione. Ma voglio dire, glielo sto ripetendo da un sacco di tempo, di riappropriarci del nostro intimo, di non mettere tutto in piazza. Qua parlate e discopate. Festa al Bonga fino a due mesi fa. Ma io non c'ero, non mi interessa, non mi piace. E lei è geloso perché non è mai stato invitato e vedeva tutta sta meraviglia che le passava di fronte, di dietro, ma mai di fianco. Capisco la sua invidia. Fermatevi, si può parlare un attimo senza che vi becchiate voi due o no? Che fatica! Vediamo se vi faccio ridere, va. Io tanto sto girata di qua. Indagato Vendola, meglio che IPM. Questa l'ho letta, bellissima. Una su Vendola, che fai? Ti spogli? Indagato Vendola, meglio che IPM si ritaglino un po' di ore per interrogarlo. 60 dovrebbero bastare. Non è male questa qua. Nessuno ha riso, vabbè. Allora l'ho capito dopo. Fa schifo, vabbè. Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Ah, lui è quello là che c'ha la comparenza, sì. Dunque, volevo dire di dare una camomilla al suo aiutante bolscevico. Bravo! Aiutante. Sa perché? Io la querelo per la parola aiutante, non per la parola bolscevico. Ma piantala di non ho mai querelato nessuno, infatti. Ecco. Sarei già miliardario come Berlusconi. Che lei ha fatto bene, Sgarbi, a trattarlo come un caprino, ok? Ah, ha detto un caprino, il caprino è il formaggio caprino però. Una caprina. Oltre a queste contumelie nei confronti di Parenzo, ci vuole dire qualcosa oppure no? Sì, volevo dire che sere fa è intervenuto un giornalista di Radio Padania, ok? Sì, è vero. E quando lui sosteneva che, le vie Togliatti, cioè le vie intestate a Togliatti andrebbero cancellate e sostituite con vie ridicolizzate, specialmente il suo aiutante, ok? Guardi, non mi pare il problema dell'Italia, il problema dell'Italia non sono le vie intitolate a Togliatti. Si occupano tutti, mi faccia parlare per cortesia. Allora Togliatti, sì, via Togliatti andrebbe eliminato per un semplice motivo, perché questo signore qua aveva rinunciato alla cittadinanza italiana per prendere quella sovietica. Sì, e vabbè, pazienza. E lui era un'altra epoca. Giuseppe, era un'altra epoca, non possiamo parlare della seconda guerra mondiale, abbia pazienza. Ma sì, ma non fate girare i coglioni alla gente quando il suo aiutante e lei dite cose che non sapete nemmeno, informatevi. Informiamoci, ci informeremo. Posso, la ringrazio. Una cosa su Togliatti interessante. Ma pure lei su Togliatti. No, attualissimo, perché mi sembra molto attuale. Togliatti è stato il primo, no, che aveva come amante Nilde Iotti, che all'epoca aveva un amante era sicuramente più scandaloso rispetto a oggi. Erano anche un po' clandestini, però ci vedeva lungo, perché Nilde Iotti è stato il primo presidente donna della Camera. Forse non aveva vinto qualche concorso, sbaglio, allora si vinceva Nilde Iotti come la Minetti, dice lei? No, io dico che ha fatto il presidente della Camera e che era l'amante di Togliatti. Come mi sembra che nessuno abbia vinto un concorso, né la Minetti né la Iotti. Ma la Iotti faceva politica da sempre, faceva benissimo, soprattutto nella stanza sopra di Bottega Oscura, e lì forse la faceva molto. Cioè, lei dice che come possiamo, chi possiamo paragonarla? Tutto il mondo e paese, siccome adesso tutto bunga bunga e quant'altro, volevo ricordare, visto che si parlava di Togliatti, che l'amante di Togliatti è diventata presidente della Camera. E quindi a chi la possiamo paragonare oggi? Ma che mi frega? Faccio un'analisi comparativa. Sto soltanto ricordando, a volte le scorciatoie aiutano, è che il mondo è sempre stato uguale, a volte forse era anche un po' peggio. Scusi, Daniela, perché volte, poi una compagna comunista amante presidente della Camera, insomma, quando non era mica come me una donna di destra, quindi a volte le scorciatoie aiutano. Beh, in quel caso sicuramente escludo che se non fosse stata l'amante di Togliatti non credo sarebbe mai diventata presidente della Camera, con lo chignon molto sobria, però poi quello faceva. E se la Minetti non avesse conosciuto Berlusconi non sarebbe consigliere regionale Lombardia, ma guarda, la sulla Minetti avrei preferito onestamente che non fosse mai diventata consigliere regionale. Io vabbè, quello l'ha già detto. Quindi, il paragone si può fare, no? Una frequentatrice, io non voglio fare paragone. Ricordo nella storia della Repubblica di una donna comunista del Partito Comunista col capo dei comunisti, che è l'amante del capo e che diventa presidente della Camera, siccome qua nessuno vince dei concorsi. Benissimo, e oltretutto c'è anche chi vince la lotteria senza comprare il biglietto. Io non so che biglietto ha comprato Nilde Iotti. Ma lei davvero è uguale? È la stessa ma cosa. Uguale a cosa? C'è la storia politica un episodio della storia da Nilde Iotti, così nasce, poi sarà stata meravigliosa, bravissima, intelligentissima, stupendissima, ma mai avrebbe fatto il presidente della Camera se non fosse stato. Dunque, le scorciatoie c'erano ieri e ci sono oggi, giusto? Si può dire questo? Ieri e ci sono oggi. Ci sono anche ci oggi. Sono donne che accettano scorciatoie, vabbè, poi sono metere. Senta, ma Rosi Mauro, secondo lei è vittima di un attacco interno alla Lega? Secondo lei si dovrebbe dimettere da vicepresidente del Senato, sì o no? Ma io non intendo difendere Rosi Mauro come donna solo perché è una donna, e oltretutto, essendo una che nella mia attività politica penso che mi sia riconosciuto che mi sono occupata molto delle donne, dico alle donne di non cascare in questo tranello, lì la battaglia di genere non c'entra niente, non c'entra niente la politica. Dunque, lei faceva un lavoro molto prezioso, che è quella della badante, ma che uno che fa la badante non deve avere mire politiche. Cioè, è una badante sostanzialmente, non una donna politica, vicepresidente del Senato. Ma io non ho mai sentito il politico Rosi Mauro fare battaglie politiche, introdursi nell'agenda politica del paese. L'ho sempre vista invece svolgere molto bene il ruolo del badante, cosa che io ho un grande apprezzamento per chi fa questo lavoro, con mire politiche che invece sono altra cosa. Non cadiamo nel tranello della battaglia di genere. Dunque, dimissioni. Perché oltretutto lei aveva preso anche il peggio degli uomini. Cioè, Marco si ricordava di essere una donna, adesso poi invece il clan maschile della Lega. Perché non si ricorda di essere una donna? Perché le donne molto spesso, quando credono di avere il potere, vogliono diventare maschi. Ma anche esteticamente, dice lei? Da tutti i punti di vista. Anche esteticamente. Cioè, l'arroganza, nella maleducazione, nel modo di essere. Poi dopo, quando cadono in disgrazia... Quindi si merita la fine che ha fatto, politica intendo. Ma si merita, io non lo so perché non è indagata, perché non faccio il giudice, sì, perché non so quello che è stato fatto. Però se si merita, no. Però ricordo che insomma le pulizie comunque le facciamo soltanto noi donne, soprattutto quelle a fondo, infatti adesso siamo molto impegnate nelle pulizie di Pasqua e quindi, pulizie primaverili. Quindi sono avvisati Milanese, Cosentino, Verdini, Bertolaso, sono tutti avvisati? Beh, Pelati, Vendola, no, infatti, Emiliano, scusi, come si chiama il presidente della regione? No, no, quell'altro che anche lui è indagato. Errani, Vasco Errani. Vasco Errani. Però scusi un attimo, dunque Rosy Mauro dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Senato? Ma visto che lei è una donna così di partito, e visto che il capo del partito e insomma i leader di quel partito hanno chiesto, sì, di fare un passo indietro, però non credo sia un problema del paese. Ma forse non lo sapevano neanche che era. Ma chi se ne frega? Siccome la terza carica, siccome se Schifani dovesse avere all'estero, dovesse andare all'estero, no? Presidente della Repubblica all'estero, Schifani, che ne so, malato, certo, sarebbe lei presidente della Repubblica. Quella sarebbe una vera violenza, non alle donne ma agli italiani. L'idea le fa orrore? Erano vostri alleati, ma insomma, ma cosa c'entra? Ma Parenzo, ma come piccolo, ma si allarghi un po' nella testa. Cosa erano vostri alleati, ma cosa me ne frega? Era nostro alleato, era Bossi, che infatti io difendo Bossi perché credo che in tutta questa vicenda la vera vittima sia Bossi, perché considerato tu... anche le sue condizioni, voglio dire, di salute. L'hanno turlupinato, insomma. Qualcuno faceva, non so se ero, comunque io non scherzo su una malattia, su una malattia, perché trovo che mai una cosa piacevole, ma dove non c'è da fare nessun tipo di umor. Ma lei è manipolata, la Mauro? Mauro è manipolata da qualcuno, secondo lei? Ma che manipolata? No. No, credo. No, una badante, ha detto una badante. Solo badante. Per me faceva la badante. Abbiamo detto punto. Tutto. Con che poi abbiamo... fosse vicepresidente del Senato è un'altra storia. Le fa orrore. Senta, l'autista, lei già, l'autista che ha registrato quella roba. Mi fa più schifo della Rosy Mauro. Ma com'è, un infame, perché una sorta di verme? Beh, come insomma, si può... io penso che se domani mio figlio affidassi mio figlio a un autista o comunque a qualcuno che gli possa stare vicino, e questo qua cosa deve fare? Se mio figlio si comporta male, gli può dare pure anche una sberla, venire da me, e se fa degli illeciti andare dalla magistratura. Ma quello che non condivido è il ricatto, perché questo qua doveva filmare, poi si teneva la cassetta. Ha preso dei soldi, secondo lei? Io non lo so se ha preso pare dei soldi, sì, ma da un infame del genere può aver fatto qualsiasi cosa. Mi fa più schifo lui di tutto il resto. Ah sì, il più schifoso è lui, quello che va là, registra e poi magari si vende anche le... come madre, uno che cioè chi cioè, vabbè, come un madre, figlio perché, come... no, perché se tu affidi un figlio, no, credi che ma sia una persona 21 anni, ma anche madre... prima era anche comunque anche a 20 anni, non è che parliamo di uno che ne avesse vabbè, 40 no, sì, certo. E che poi ti fa l'infamata assoluta di registrare. Si è tutelato. Ma tutelato da che? Da un politico che non faceva cose. No, quello no. Ma no, diciamo cazzo. Certo che si è tutelato. Ma un ricattatore. Ma io se so che lei fa qualcosa, secondo lei, adesso forse mi informo, ma dico comunque non certamente, ma non mi tocchi così perché guardi, perché fanno un certo effetto, è già diventato un po' pandan con la cravatta, un po' rosso. Ma comunque voglio dire, o vado alla magistratura o faccio altro, ma sicuramente non mi verrebbe neanche in mente di poterla registrare, servizi, filmare, conservare la cassetta e poi ricattarla. Ma chi c'è sotto? I servizietti? Ma chi c'è sotto? Ma chi servizietti? Io guardo chi c'è sopra, a me sotto. Ah ecco, questo è un tema interessante, perché cioè... lo sguardo cade sempre in basso, per cui cerco di tenerlo in alto. No, questo è interessante. Poi per guardare lei un po' lo devo abbassare. No, però le battute sulle persone basse nel vostro partito non vanno fatte, eh? Guarda che Berlusconi è altissimo. È più alto di me. Ah, io lo vedo alto. Altissimo. Sentala, ma per tornare a chi sta sopra e chi sta sotto. Aspetta. Sallusti. Lei sta sotto? No, ma non volevo. Lei sta sotto sempre. In qualsiasi senso. Non ce la posso fare. Qualsiasi dimensione. Passiamo oltre. Vabbè, allora, volevo chiedere una cosa. Qualcuno potrebbe dire ognuno al suo trota. Ognuno al suo trota. Certo. Bello. Giusto? Bravo sto Cruciani, però. Dovrebbe fare una trasmissione alla radio, bravo. Ma va? Allora, qualcuno si trova, perché anche lei è stata accusata tempo fa di avere messo una sua parente, che peraltro è qui presente. Ah, sì. Un solo nepotismo, sì. Ne abbiamo già parlato. Poi voi siete venuti meno perché non l'avete mai invitata, l'avete attaccata e poi avete. No, attaccata, l'abbiamo attaccata. Adesso non esageriamo. Ma io difendo il nepotismo. Ah, lei difende il nepotismo? Assolutamente. In che sì. senso difende il nepotismo? Scusi. Bello, c'è la raccomandazione, perché... la difende. No, no, non è la raccomandazione. Vabbè, ma non io sono qua e dico anche una cosa impopolare, lo difendo un sano nepotismo. bullismo, nel senso che se uno ha una figlia, una nipote, qualcuno che è capace, una passione, tutto, perché non deve avere segnalarlo. La possibilità solo perché è parente? Sì, lo può mettere nel privato, cioè ad esempio ha un'azienda, dice ma questo se uno qui è bravo, se uno fa bene le cose, me lo metto nel privato. Ma perché? Se uno svolge bene scusi, una chi funzione lo decide pubblica che è bravo? Solo per appunto chi lo decideranno decide? Poi dopo lo decide lei? No, io non lo decido. Eh no, se lei la mette posso... a quel posto dove dovrebbe andare chance, un'altra. Se uno poi non è bravo, un'altra chi? Allora, un'altra non raccomandata. Ma voi fate sempre finta che cadete dal pero. Io no, sono ma di io Pino, non io. Voi mi sembrate Alice nel paese delle meraviglie. Ha fatto 3 anni di militare a perché, Cuba. Sì, come Totò. Ma voglio dire questo, perché scusi, gli assessori li decidono i partiti oppure no? Certo che li decidono. Dunque lei mi sta dicendo che ha alzato il telefono quando fu eletto il signor Podestà? No, non ha alzato nessun telefono. Cioè, abbiamo fatto nipote... una campagna elettorale parlando con il presidente della provincia di Milano, si parlava degli assessori, siccome e lei si gli dice ha consigliato sempre, sua nipote. Ha detto, tu chi metteresti? Ho detto, metterei una ragazza giovane, sì. Pur non essendo Berlusconi, brava. Bella, pur non essendo Berlusconi, laureata, pur non... No, visto perché che si dice sempre che Berlusconi le vuole belle, giovani, laureate. E tutto, ho detto, secondo me potrebbe fare bene la sua cosa. Chissà perché mio nipote. E cosa c'entra? Perché lei di quelli che non conosce, di uno che passa in mezzo alla strada bene, non sa chi è. Fa bene a rivendicarlo. Lo rivendico certo. Con orgoglio. Come metodo? Dice questo potrebbe essere proprio un metodo. Pensi che bello seguire. Se domani mio figlio, cosa che non capiterà, volesse far politica. Come nelle logge. Dico no, fa schifo. Come nelle logge massoniche. Ma voi fate sempre tutti duri puri, ma lei è qua perché ha vinto un concorso. No, credo, io sono qua, no? Ma non mi ha raccomandato nessuno. Questo glielo posso assicurare. Voi siete sempre migliori. No, migliori mai, anzi. Ma guardi, io non ho detto che sua nipote è pessima. Mi sono venuta a suonare a casa. Quando lei ha deciso che voleva fare il giornalista televisivo radiofonico, sono venuti, hanno visto il campanello Cruciani, hanno detto, scusi Cruciani, vuole fare un programma. Abbiamo fatto la gavetta tutti. Abbiamo fatto la gavetta. Io anche. Mi ricordo, Tele Lombardia. Ci sono venuti a chiamare a casa anche quando faceva. Io ho cominciato a fare il giornalista a Padova quando avevo 19 anni. Ma cosa vuol dire? Sono relazioni, ma che oggi dobbiamo qua. Ah, già che Parenzo era parente. È Parenzo, poi ha vissuto per anni che sembrava tutti credevano che fossi il parente del proprietario di Tele Lombardia e invece hai avuto culo perché ti chiamavi come lui ma non eri parente. Esatto. Ma non mi ha preso per quella perché lui lo sapeva. Lui ma hai marciato per anni. Ma non dica sciocchezze, ma è un privato. Ma facevi il figlio di Parenzo. Ma ho dovuto farti la domanda specifica una sera e ho detto scusa, ma tu sei figlio di Sandro. E le ho detto di no. E tu così hai detto. Quello è un privato. No, però non eri convinto. Però, io sono convinta di chi è mio padre. Scusi un attimo. Forse. Anche fossi figlio o bisnonno, quello è un privato. Vabbè, ma lo capisce o no? Punto di domanda che quello è un privato. Ma io non sono una così intelligente come lei sa. È diverso il privato dal pubblico, no? Il privato può prendere un coglione come me. Comunque. Cioè quel privato poteva dire prendiamo quel coglione di Parenzo. Può scegliere, sono soldi ma del privato. Ma nel pubblico è una chance. Poi non è che uno rimane tutta la vita. Pubblicità. Se non è capace a farlo poi andrà a casa. Pubblicità, torniamo subito. Pubblicità. Bene, siamo di nuovo. Esattamente no. Perché? Perché il trota ha anche dimostrato di essere un pirla. Ma ho capito, però ha preso i voti. Vabbè, ha preso i voti, pazienza. Uno ha preso i voti, è un pirla. Un altro invece magari è capace, non è pirla, quindi non è un trota. Non è trota, non è come il trota, cioè è più intelligente un'aquila. Del trota. Un'aquila, più intelligente del noi trota. Noi non siamo piccioni. No, però ho capito. Neanche Colombo, perché però... Albertini diceva moderata. Io ricordo moderata che un... a voler essere moderata si diventa modesti. Ah sì, questo Allora, però scusi un attimo, se uno proprio va a guardare le cose, il trota, cioè Renzo Bossi, ha preso i voti, 13.000 voti. Sua nipote, adesso non mi voglio accanire per carità, però mi accanisco. Sua nipote lei dice l'ho raccomandata, l'ho segnalata. Ma voi sbagliate, o fate finta di non capire come funziona. L'ho segnalata la Podestà. No, io lo so ma benissimo. Non è così. Quando si vince un comune, una regione, una provincia, sì. ci si siede a un tavolo insieme al presidente. Ho capito, ma non i ha fatto un concorso decido, per merito, ma nessuno fa un concorso, guardi, nessuno di noi ha fatto dei concorsi. Ma va benissimo così, però quindi no, non è una raccomandazione, è come una procedura, perché, ma perché ogni dovrebbe partito essere più degna segnala... del Trota? Perché deve essere più degna del Trota? Esatto, cosa perché, hai più? Insomma, dimostrato, l'altra sera ho visto un'intervista del Trota, non so dove, dalla Bignardi, che mi chiedeva questo... tre valori nei quali credere, non ho saputo enunciare. No, io su questo non ho dubbi, non ho dubbi, posso dirlo io. Possiamo andare oltre, non conoscendo l'assessore Garnero, posso parlare dirsi, di macchine sicuramente non... è meglio. Ma cosa hai in più degli altri? È più intelligente, più stratega, studiato di più, cos'è in più? Ognuno ha il proprio Trota, diciamo la verità, questa è ognuno. Non gli manca il quid. Non gli manca il quid, quello è Alfano, però non è il Trota. A lei, nel senso che penso stia facendo bene il proprio lavoro. Vabbè, comunque, insomma, lei rivendica il fatto di aver segnalato. Però adesso raccomando anche voi, volete andare da qualche parte? No, no, no, noi no. Non ci vuole nessuno. Non sappiamo solo fare questo. No, no, assolutamente. Le ho viste da Matrix in forma. Chi? Da Matrix. Beh, senta, Bosusco, no? Bosusco, l'ha sentito questo qua che è stato liberato? Sì, sì, ho fatto anche un tweet perché ha detto le vacanze, non ho pagato le vacanze. Io ho twittato dicendo, beh, le vacanze le abbiamo pagate noi, adesso spero che lo Stato faccia la fattura. Bisognerebbe fargli pagare il riscatto. Si è appena liberato, ha detto delle vacanze, delle belle vacanze non pagate. Magari anche rimandarlo lì, no? No. No, basta fargli pagare le fatture. Poi ha detto anche, vacanze, ha detto anche che, i maoisti sono vogliono la giustizia. Vabbè, quelle mezzo sono mattoide, idee personali, no? Ognuno di noi può pensare quello. Mi piace parlare di principi meno di persone. Vabbè, ma in questo caso l'ha detto lui, non è che non bisogna parlare infatti di sto dicendo, lui è un cretino perché ha detto questa cretino, roba qua. Così, un cretino, certo, no. Uno che dopo che viene liberato, cioè, che non è che non è costato, non è costato poco allo Stato italiano, viene liberato e quant'altro, dice delle belle vacanze non pagate, magari era sotto shock, adesso io non lo so, perché anch'io ho il suo stesso giudizio. Scioccato mica tanto, perché era bello lucido nel dire una cosa del genere. Ah sì, lucidissimo anche secondo me. Poi ha smentito come al solito. Ha smentito, però intanto l'ha detto. Senta, ma a Monti a un certo punto non si è un po' afflosciato? Lei era grande tifosa di Monti, aveva detto che la Fornero era cazzo. Io ero una che nell'ufficio di presidenza del PDL all'epoca, all'inizio. Esatto, dopo è diventata tifosa di Monti. No, dopodiché di alcuni quando c'è stata la riforma delle pensioni, ho detto la cancelliere sta facendo bene il proprio lavoro. La cancellieri, la Fornero e tutto. Oggi sono molto delusa sulla riforma del mercato del lavoro, cosa che è importante e che invece non vede la luce. Ma gli mancano un po' le palle a Monti, gli sono mancate un po' le palle per andare avanti sulla riforma. Ma è un professore, io trovo che i professori stanno molto bene in cattedra. I professori non hanno... come si dice, non hanno... No, però siccome gli italiani, voglio dire, sembrava che tutte le colpe... Ma mangia il panettone, secondo lei? Governo. Mangia il panettone Monti, secondo lei? Ma secondo me sì, perché le elezioni sono a marzo del 2013, poi abbiamo anche l'elezione del Presidente della Repubblica, però penso che questo governo purtroppo ha perso una grande occasione di poter fare, visto che non doveva andare alla ricerca del consenso, ciò che serviva al Paese, ciò che noi non siamo riusciti a fare, perché bisogna che la Presidenza della Repubblica ce lo vede Monti, secondo lei punta lì? No, secondo me Monti punta in carichi internazionali, perché lui è molto alto nelle sue, senta, molto sobrio. Siccome mi sto un po' annoiando, mi dica una cosa alla Santanchè, questi partiti che lei vede, io so che lei lo pensa, i partiti sono un po' tutti finiti, no? Tutti finiti, le sigle, i partiti di adesso, eccetera, erano un po' travolti nel 2013 da un'onda. I partiti di oggi sono tutti finiti, me lo dica, perché Monti, io lo so che lo pensa. No, io credo che dopo questa parentesi, questa sospensione della democrazia con l'avvento dei tecnici, i partiti non potranno più essere come prima. E quindi subiranno delle trasformazioni. Ma Berlusconi la farà una sua lista la io farà. Non so se Berlusconi farà la sua lista, ma so per certo che Berlusconi comunque qualcosa farà e qualcosa cambierà, perché oggi non possiamo pensare di continuare nella stessa maniera, anche perché oggi partito vuol dire sfiducia, politica vuol dire schifezza, e quindi dobbiamo essere in sintonia con la gente, cosa che oggi lo siamo molto però poco. Onestamente Alfano non sarà il leader della nuova compagine di centrodestra al 2013. Alfano è il segretario. Ma non sarà il vostro candidato, no? Questo non lo so dire, non abbiamo mai parlato. Dipendesse da lei? No, dipendesse da me, oggi come oggi dovessi scegliere io, non metterei un politico di professione a fare il candidato premier. Perché comunque questi, cioè, come oggi l'opinione pubblica, quello che sta succedendo nel nostro paese, la mancanza di fiducia totale, a parte che io non ho mai avuto fiducia da coloro che nella loro vita non hanno mai lavorato un'ora e poi li vediamo di spenderci ricette di economia, di pensioni, di riforma del mercato del lavoro, di crescita. Giubilato. E quindi voglio dire, il fatto di non aver mai lavorato, di aver fatto politica sin da quando avevano i pantaloni corti, di essere mantenuti soltanto in generale, ma come Fini, ad esempio. Come Fini? Sì. Anche Casini. Senta, ma il figlio di Bossi, che dice che l'Italia è un paese di merda, l'ha letta questa cosa? Lei l'ha letta, perché è un'attenta lettrice. Io, guardi, sono molto italiana, sono orgogliosa della mia appartenenza. Dica qualcosa al figlio di Bossi che dice l'Italia è un paese di merda. Io ho già detto che è un pirla. No, ma un altro figlio. No, vabbè, è sempre pirla. Lei dice vale per tutti, erga omnes, vale, per uno, quindi. Senta, ma se lei, se si dovesse accertare che il figlio di Bossi, che per il figlio di Bossi, un altro ancora, Sirio Eridanio, tale Sirio Eridanio. No, ma sono due. Io già non riuscirei a chiamarlo così, il nome è difficilissimo. Sirio Eridanio. È stato pagato, sono stati pagati 9.000 euro. Ma Sirio che faceva l'oroscopo? Ma che ne so, ma sono cose celtiche. È Sirius quella. 9.901,62 euro per rifarli, per fare un intervento alle adenoidi. Le adenoidi. Adenoidi, sì. Sembra, con i soldi della Lega, cioè con i soldi nostri. Pensare che abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari, ci invidiano anche gli Stati Uniti d'America, come mai ha dovuto pagare sta parcella? Perché questi si fanno, quando uno ha i soldi a disposizione punta al top, va al top. Ma al top si trovano ottimi primari, ottimi medici negli ospedali pubblici, una cosa che abbiamo e che soprattutto in Lombardia funziona, la sanità. Vabbè, certo. Comunque lei non si incazza per una cosa del genere? Ma io mi incazzo moltissimo e per tante altre cose, non nello specifico, mi arrabbio per molte cose che si vedono e che fanno perdere fiducia ogni giorno da parte dei cittadini nei confronti della politica, ed è un peccato. Tipo i casi che abbiamo segnalato di Milanese, di Cosentino, sì, di a me Bertini. Anche Penati, Emiliano. Comunque Maroni a Bergamo ha detto che via i parenti sino al secondo grado dalla Lega, attenzione, Lega, si sente maroniana lei in questo? No, io non credo che Maroni possa essere un leader, no, il leader della Lega, perché penso che la Lega è nata con Bossi e la Lega è con Bossi. Quindi morirà? No, però non credo neanche che Maroni sostituirà Bossi. Ma non è un po' paravento, per non dire paraculo, Bossi in questo frangente, no? Beh, guardi, io l'ho sentito l'altra sera al suo intervento da Bergamo e devo dire che è stato un intervento coraggioso, anche quando ha chiesto scusa per i propri figli, non so quanti quello padri Bossi, l'avrebbero Bossi. Fatto. Sì, Bossi. Sì, no, Maroni. Dico. Nella stessa maniera. Maroni in che senso? No, Maroni non è uno che vuole, che ha tradito, che ha tramato nell'ombra. Per... Io non so se ha tradito, io ritengo che la Lega, che è stato un movimento ed è un movimento importante soprattutto per la questione settentrionale, per quello che ha fatto e che deve continuare a rimanere un partito importante, credo che anche al nuovo congresso, secondo me, sarà ancora Bossi segretario. Bossi non segretario. Vedo altri segretari, non vedo nessun segretario alleato col PDL. Alleato col PDL. Ma che PDL? Questa sa va san dire. Grazie, a presto. Grazie della Santa Fe. Pubblicità, torniamo subito. Siamo qui 800 24 00 24. Andrea dalla provincia di Rimini, buonasera Andrea. Buonasera, signor Cruciani, buonasera. Vada. Chiedo scusa, volevo dire solo una cosa. No, ma non deve chiedere scusa, perché chiede scusa? Per la sciocchezza che dirà. Volevo chiedere, ma questa gente che con i nostri soldi fanno i loro comodi, giustamente, sì, come chi? Dice lei, ma questa gente chi? Quelli della questa Lega gente oppure chi? Quelle della Margherita? Ma dico io, perché il finanziamento ai partiti non si elimina completamente oppure se ne dà giusto quello che serve? Questa gente ha depositato. Guardi, forse per me il finanziamento pubblico dovrebbe essere annullato, Andrea, annullato, cancellato, basta soldi ai partiti. Quando uno dice che bisogna riscrivere le regole significa che non vuole fare nulla, niente. Sì, è così, vedrai. Bilanci certificati, sapere dove vanno meno soldi, bilanci certificati, deposito alla Corte dei Conti. Ma meno soldi significa quasi azzerarli, mettere il 10% di quelli di adesso. La democrazia è l'unica cosa che hanno fatto. Spesi bene. Come diceva l'altro giorno Franco Pace ad Agorà, se li vadano a cercare, a bussare la porta, mi dai soldi per fare politica, bene, altrimenti non ti presenti, punto. Non è una cosa strana. Nessuno, giusto, ci vuole un minimo di finanziamento pubblico, sempre se tu riesci a trovare finanziamento privato. Gradualmente, non si può fare dall'oggi al domani, perché sennò ci sarebbero soltanto i partiti dei milionari. Non è vero, questa è una stupidaggine colossale. Lo sai che è così. Mario da Milano. La propaganda costa, i volantini, i manifesti, le manifestazioni. Ma che c'entra? Questa è una banalità. Anche le manifestazioni costano. Ed è difficile trovare oggi qualcuno che ha fiducia nella politica e che ci metta i danè, questo è evidente. Mario da Milano. Un conto Mario. È pagarsi le tette rifatte, un conto è pagare un convegno di partito. Marco, dimmi quando ho finito parecchio. Ma che c'entrano le tette di fatto? Ma no, ma dico, voglio dire, quello o le emorroidi, cioè quello si è fatto l'operazione di emorroidi con i soldi pubblici, questo un po' ti rompe, no? Se ma perché devo, scusami, perché io devo vabbè, pagare i convegni di tutte le correnti di tutti i partiti del mondo? Non li voglio pagare, ma se li vadano a cercare ma loro. Ma quello è un altro problema, quello. Importante è sapere dove vanno a finire i soldi che finanziano la democrazia, cioè la politica, sì, questo ma... è importante. Poi... Vabbè, ma tu sei a favore del finanziamento pubblico, io no. Questa no, sono a favore della regolamentazione, sì, della riduzione del finanziamento pubblico, che non è una cosa... Mario, da Milano. Sì, eccoci finalmente. Cruciani, dica però. Volevo solo dirti una cosa velocemente da colleghi. Ah, è l'orario delle telefonate. In teoria non si può fare la pubblicità così smaccatamente a un prodotto. Ma quale, capisco quale fare il programma da una sede di un concessionario, però menzionarlo non fa tanto onore ai giornalisti che non dovrebbero e non potrebbero fare pubblicità, no? La chiamata è la telefonata classica dal reparto. Dove si trova lei? In quale reparto trova? Allora io non ho la patente, non guido macchine, stiamo facendo un tour, tutte le trasmissioni hanno uno sponsor, questa trasmissione che... è uguale a se stessa da quando la fa il signor Cruciani, da quando sei iscritto all'ordine dei ma io non sto facendo, non mi venga a insegnare il mio mestiere, primo, non ho mai fatto pubblicità a nessuno, non ho mai infatti non ho mai fatto pubblicità a nessuno. La marca continuamente. Ma chi lo nessuno fa? Ma che ha sta menzionato dicendo? La marca. Ma di che sta parlando? Abbiamo semplicemente detto comunque, che stiamo trasmettendo. Caro Mario, se voglio la menziono e non me ne frega nulla nell'ordine dei giornalisti e dei sindacalisti. Guardi, non me ne frega niente. Se voglio la menziono, non lo faccio. Se voglio la menziono e certamente non prendo lezioni di etica e di morale da lei, ha capito? Certo. Non so, ecco, non, appunto. Mi denunci, ma che non si fa? Ma non rompa i coglioni. Ma non rompa i coglioni. Ma mi denunci, magari mi denunciasse, mi denuncia all'ordine dei giornalisti, faccia pure. Non denuncia all'ordine dei giornalisti, non è faccia. Non è corretto fare pubblicità, non è corretto. Ma di che sta parlando? È uno sponsor, non mi rompa le balle, sta facendo più pubblicità lei in questi tre minuti che durante la trasmissione, se ne rende conto? Lei è pagato dalla Porsche, questo è sicuro, E ora ho detto sia pagato sia Porsche, capito? Allora, il concetto è questo, quando lei sente una trasmissione qualunque che dice questa trasmissione è presentata da Bubù, ad esempio, allora dice cazzo, non si può dire la parola Bubù, cioè, perché non si può dire questa trasmissione è presentata da Bubù? Poi bisogna vedere se durante la, se la trasmissione cambia in funzione di Bubù o se uno come me, ad esempio, che non ha neanche la patente, non gliene fotte nulla delle macchine, ad esempio, che non so neanche come si guida una macchina, ad esempio. Scusi, poi lei che mestiere fa, Mario? Che mestiere fa lei? Fa il concessionario? Che fa di mestiere? Di mestiere che fa? Giornalista. Ecco, ci siamo. Ma la solita cosa di quelli, non potete fare pubblicità. Ma quale pubblicità? Ma di che stiamo parlando? Scusi, dove lo fa il giornalista, tanto per capire? In un piccolo sito che non sto a menzionare per non fare pubblicità. Ma scusi, ma lei... che problema c'è? Informazione, ma che c'entra? Dica piccolo sito, la pubblicità, non è che mica fa pubblicità. Va benissimo, anzi, lo pubblicizzi. Ma scusi, ma lei nel sito non c'ha la pubblicità messa di lato? Ce l'ha come o no? Vive? Come vive il sito? La pubblicità è messa di lato, voi sapete benissimo. Appunto. Che messa di lato l'informazione. E che c'entra? Ma c'entra? Mica stiamo parlando del prodotto. Ma lei non può bere prima di chiamare? Giuseppe, non, non si può bere, non si può. Ma il povero parente, che povero non è, ma comunque non si può telefonare né mettersi alla guida di una macchina alle 20:15 dopo aver bevuto, non si può, perché se uno scusi, si è lucido Mario, quando scusi, chiama. Scusi un attimo, abbia pazienza però, perché qui si affronta una cosa anche il nome del sito, anche scusa. Serie. Secondo lei, adesso oggettivamente, io ho mai parlato per un secondo del prodotto? Questo che non nomino. No, perché altrimenti lei allora non mi rompa i coglioni, arrivederci e grazie, pubblicità, questo è il punto. Anzi no, traffico. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, non voglio farti fretta ma tra un po' inizia la festa. Ai ai ai ai ai ai ai, hey, hey, hey. Zanzara Party, oh yeah. Ridillo! Live! Ridillo live! Ciao! Ma ridillo! gli originali di Dillo con noi, Giuseppe da Milano. Stiamo trasmettendo da Marte, non da un concessionario di auto, ma da Marte, anzi diremo fra poco da un... Ci sentite? No, da un centro, da un centro di vendita di astronavi. Da un... Giuseppe da Milano. Giuseppe da un Milano. Centro di autovetture. Addio. Giuseppe da Milano. Riguardo l'affermazione della signora Santanchè sull'autista infame, no? Adesso forse la signora Santanchè è andata via, mi dispiace. Però credo che sia anche abbastanza facile prendersela con un poveraccio che sarebbe l'autista che cerca di sbarcare il lunario, no? E non avere altrettanto critica nei confronti di una persona molto più importante che era Vittorio Feltri, che a suo tempo sul giornale fece una grandissima infamata nei confronti di Dino Boffo, all'allora direttore dell'Avvenire, che ebbe solo torto di criticare il grande capo Berlusconi. Ma scusi, cosa c'entra adesso? Le due cose sono distinte. Secondo la Santanchè, questo qua a lei fa schifo, fa più schifo l'autista che ha registrato rispetto agli altri della Lega. Perché abbiamo sentito? Perché non si registrano, perché doveva rivolgersi al papà e dopo alla magistratura, eccetera, eccetera. Cosa c'entra Dino Boffo e Vittorio Feltri? Mi deve spiegare il collegamento. Il collegamento è che quando si tratta della propria parte politica o delle persone con le quali c'è una certa sintonia. Allora lei dice che Vittorio Feltri non ha fatto un'infamata quella volta, ma che non me ne frega niente adesso di parlare di Feltri. Avete fatto arrabbiare con Giacomo, attaccato addosso a una persona, lei non gliene frega niente. Complimenti. Ma non ha capito lei quello che ho detto. Una persona è stata fangata da un personaggio molto importante, perché scusi, ma non ho detto niente io. Nessuno ha detto nulla. E invece questo poveraccio che cerca di salvarsi il culo perché c'è chi lo usa come bancomat, no? Lui è un infame, poverino. Lui è... Vabbè, guardi, se lei vuole fare questo paragone, faccia sto paragone. Stasera si arrovelli tutta. Che faccio? Faccio su quei poveracci. Non si sente niente. Va bene, Davide da Treviso, buonasera, grazie. Sono Davide, buonasera. Buonasera. Posso parlare? Sì. Volevo chiedere scusa al dottor Parento, perché sabato mattina sono stato attirato dall'attenzione nei suoi confronti, perché era in Piazza dei Signori a Treviso e stava intervistando il sindaco Gentilini. Aveva un atteggiamento molto particolare, nel senso che ha affrontato il sindaco proprio a distanza ravvicinata, quasi lo obbligasse o lo schernisse, e mi ha fatto sorridere. Dopo l'ho osservato per più di mezz'ora e aveva questo atteggiamento per la Piazza dei Signori che faceva sorridere, nel senso che girovagava con questo telefono e rideva probabilmente dell'intervista appena fatta. Era solo una critica. Non può ridere per strada. Adesso dobbiamo fare un processo su come fa. Allora, ho fatto l'intervista a Gentilini. Ma possiamo rimandare in onda che un'intervista molto divertente a Gentilini, fatta per la 7, il programma in onda, un ottimo programma che va in onda il sabato e la domenica dalle 20.30 alle 21.30, e questa è una marchetta. Dopo aver fatto l'intervista a Gentilini, ho chiamato il signor Cruciani per condividere con lui le parole del sindaco. Facciamo così, se le piace così, siamo malati. Noi ci chiamiamo così. Dice, hai sentito Borghezio cosa ha detto? Sì, ho mandato a cagare quello lì. Sì, così ci divertiamo così noi. E siamo fatti così. Che dobbiamo fare? Cioè, a noi piace divertirci così, anche di notte ci chiamiamo, hai sentito quello, quell'altro, ridiamo. Pronto? Seguo dell'intervista, perché comunque il sindaco Gentilino, che è sempre colorito nelle sue espressioni, nei suoi modi di fare, nei suoi modi di essere, probabilmente l'aveva fatto sorridere o ridere ma non c'era nessun problema, non deve essere nessun tipo di problema. L'ho osservato, mi faceva sorridere il suo atteggiamento e come si è atteggiato, siccome comunque nei confronti di città di Treviso, soprattutto roccaforte della Lega, tutto quanto sono sempre critiche, comunque voglio dire più o meno bene. Stava ridendo di Gentilini, ci sta simpatico Gentilini, il numero uno. Infatti aveva fatto sorridere, infatti il dottor Parenza mi ha fatto sorridere anche me, perché ho seguito l'intervista, aveva fatto alcune battute secondo il Vangelo, secondo Gentilini e tu quant'altre altre cose, allora mi ha fatto sorridere. Guarda che giuro, non era una critica alle cose, mi faceva sorridere il fatto di come aveva l'intervista. Lei ha chiamato, ha perso 3 minuti del suo tempo per chiamare e dire mi ha fatto sorridere Parenzo l'altro giorno che sorrideva a Treviso, ma è una roba da pazzi, cioè. Io mi metto qui, non dico niente, niente di importante, parlo dell'attualità. Dico solo che non siamo mai contenti, non tornano mai conti, questione di mentalità. Neanch'io sono contento del mio mondo. mondo così così com'è. Il paradiso può aspettare un altro po'. Ma poi dov'è? Il paradiso. Il dov'è? Il paradiso. Il paradiso aperto, chiuso, pa paradiso. Vorremmo tutti un mondo nuovo, ma il mondo nuovo da solo non verrà. Ma io il mondo nuovo in realtà non lo voglio, mi piace moltissimo questo mondo. Gianluca da Modena, erano sempre i ridillo che mi stanno dietro alle spalle come corvi. Gianluca da Modena, buonasera. Critica anche il test delle canzoni. No, è grandioso. Gentilini, Gentilini, voglio sentire. Gentilini alle prese con Parenzo. Se, sì. Sabato, venerdì, quando era? Non sabato, sabato. Sabato sei andato, no? Venerdì sei andato. Sono andato sabato. Beh, però se vuoi che dica venerdì, venerdì, va bene. È lei il direttorissimo, cioè sono andato Gentilini, venerdì, va bene, sì, è vero. Gentilini, avanti. Però io sono dell'avviso che secondo il Vangelo, secondo Gentilini, ordine, disciplina e rispetto delle leggi, chi viola le leggi va bacchettato e va buttato nelle patrie galere e buttare via anche la chiave. E vabbè, questo era un Gentilini, ma ce n'è un altro, oppure avete troncato così, avete troncato la voce così a Gentilini. Vabbè. Gianluca da Modena, buonasera. Buonasera, no? Io volevo intervenire, sono rimasto abbastanza allibito dall'intervento della Santanchè sulla Iotti. Sì, non era la prima volta che parlava, della Iotti, anzi l'aveva paragonata precedentemente a una escort. No, ma anche stasera l'ha detto in pratica. No, ma io è quello che dico, cioè, come si fa a mettere in dubbio adesso al di là di quello che è l'amante o non l'amante di Paolino Togliatti è stata, ma di come si fa a permettere la Santanchè di dire che se non era l'amante di Togliatti non sarebbe mai diventata quella che è diventata, che è stata una delle forse. Beh, comunque, devo dire, magari sarà stato inelegante, però è anche vero che qualche favore l'avrà ottenuto per essere stata vicina. Io dico vicina perché poi amante o non amante non me ne frega niente, cioè vicina a Togliatti, sì o no? L'avrà avuto qualche, ma no, ma qualche vantaggio. Scusami, no, però le mogli. Anzi, solo svantaggi. Le mogli di dirigenti politici non è una novità. Non è, ma quello è un amore nato dentro il Partito Comunista. Era una roba romantica. Non sto dicendo niente, non sto dicendo che è stato un. Doveva tenerla segregata lì al quinto piano delle botteghe oscure mentre lui doveva. Vabbè, Gianluca, lei che sposato. Cos'è che ha dato fastidio a lei? No, mi ha dato fastidio che una come la Santanchè, che si parla della Santanchè, non si parla di una. Capito, ma Santanchè non è che per definizione è una sorta di mostro. No, ma poi diciamola tu. Beh, appunto, io dico però che una come lei non si può permettere comunque di giudicare una persona come la Nilde Iotti. Perché? Perché non si può permettere di giudicare la Iotti? Scusi, ma perché? Perché io penso che poi lei vive di queste cose, quindi dico che dice che la Iotti è diventata quella che è diventata perché è stata l'amante di Palmiro Togliatti. Io dico, sappiamo tutti che Nilde Iotti non era solo l'amante di Palmiro Togliatti, ma all'interno del Partito Comunista. Non vorrei intavolare una discussione qui storica su che cosa è stata Nilde Iotti. A lei non è piaciuto l'intervento della Santanchè, la ringrazio e l'abbraccio. Gerardo da Como, buonasera. Buonasera, stendo un piccolo velo sul discorso della Nilde Iotti perché mi ecco, stendiamo un velo su tutto. È andato a farsi benedire. Poi io avrei tre proposte. No, tre non mi sembrano troppe. A livello popolare. Uno, se entro un mese il Parlamento non abolisce o non cambia o no, il rimborso dei partiti, sarebbe molto bello poter prelevare tutti i parlamentari, tutti lasciarli in un mercato rionale e tornare dopo un'ora e vedere che cosa ne è rimasto. Poi un secondo decreto legge obbligando Monti a tagliare di 100 miliardi entro fine maggio la spesa pubblica, e se non lo fa prendere pubblicità, anche lui, un attimo, pubblicità, forza pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Voglio solo ascoltatori, ascoltatori. Settimio d'Ascoli Piceno, anzi prima uno Zanzara parte originale, va, per introdurre. Vai. La come sudo paradiso. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey, hey. Zanzara No, ecco. Settimio Ascoli Piceno, eccoci qui, buonasera. Buonasera. Vada, vada. Senta, io per parecchi anni ho fatto l'autista, sì, però non mi era mai successa una cosa di quel genere che abbiamo sentito finora. Cioè che cosa, scusi? Che questo autista filmava perché, ma io mi rendo conto il motivo, perché questo signore andava in segreteria dal tesoriere, si faceva dare i soldi magari a nome dell'accompagnatore che era vicino a lui. A lungo andare lui ha pensato, se un domani mi dicono questo veniva qui in segreteria, prendeva i soldi a nome di... E quell'altro, il signor D, diceva, a me mai consegnato. Di conseguenza l'autista era fregato, giusto? Ma guardi, io credo che l'autista l'abbia fatto, io non lo so, da quello che si dice forse ha preso dei soldi. Non credo che l'abbia fatto per motivi ideali. Io non ci credo a queste cose qui. Però non possiamo nemmeno fare il processo alle intenzioni. Cosa vuole che le dica, Settimio? Pare circola nel mondo giornalistico la notizia che si sia fatto pagare per quel reportage. Ma quello è abbastanza tanti normale. Si fanno pagare, dai, anche nei talk show non mi pare una cosa morale. Non è morale, però non credo che abbia agito per principio, no? Per motivi di principio, per motivi ideali. No, sembra abbastanza così calcolata la cosa. Ma anche no? La paura di non essere creduto, magari sarebbe stata la parola del trota. Però lui si voleva anche tutelare, perché magari salteranno fuori altre cose. Appunto. Non lo sappiamo ancora dalle indagini. Pierluigi dalla provincia di Cremona. Sì, buonasera dottor Cruciani e dottor Parenti. Buonasera. Un ritorno pazzesco, spero voi mi sentiate bene. Noi sì, ti sentiamo, la sentiamo, sì. Ecco, io volevo solo intervenire perché la sua trasmissione la sento sempre già iniziata verso le 20 quando esco dal lavoro, e anche stasera l'ho sentita dire che la politica non dovrebbe prendere soldi pubblici, sovvenzioni e altro. Io penso che nella democrazia, in una democrazia sana, è giusto pagare e dare dei contributi ai partiti. Il problema è sempre lo solito, che i politici si impossessano sempre di tutto e poi quando anche viene scoperto il malaffare non pagano mai nulla. Quindi non vorrei che anche da queste vicende della Margherita e della Lega pagassero magari delle forze politiche trasversali e che magari vivono solo con la soluzione pubblica a beneficio di poteri, come abbiamo visto nell'ultimo ventennio, perché anche Forza Italia, Berlusconi, PDL hanno dimostrato che non è che la politica può essere fatta solo da chi ha solo possibilità economiche, capisce? Sì, ho capito, però guardi che in altri paesi il finanziamento dei partiti è molto ridotto rispetto all'Italia e nessuno si lamenta. Io sono dell'idea che chiunque voglia fare politica prima deve però trovare... Però ci sono i finanziamenti privati. Certo, ci dovrebbero essere i finanziamenti privati che anche in Italia qui. In Italia è difficile trovare qualche privato, ma poi trovare qualche privato che mette i soldi... No, guardate, vi assicuro, i privati pagano. Chi è questa voce, scusi? Chi è? Una voce dall'inferno, Maurizio Paradiso. Buonasera. Ci mancava lei. I privati pagano, benissimo. Il concetto è chiarissimo. Lores da Vicenza, buonasera. Ecco, lei si deve limitare, sì, signora Paradiso, a questi piccoli aforismi. Queste piccole chicche. Io ho sempre fatto quello che mi viene chiesto. Ah, benissimo. E mi è stato sempre chiesto: non avere paura, perché la paura fa 90 gradi. Lores da Vicenza. I gradi è un'altra cosa, diciamo. Lasciamo la parte. Lores Flores. Ci signor mancava Lores. La Paradiso dopo le fantacche, ci mancava. Siamo a posto. Amore, mi vuoi paragonare a quella scopa? No. Ma Tito te la super pure la scopa. Tito te la super della scopa. Ma scusi, Lores, cara, lei Lores è un nome di donna? Lores. Sì, la così gentile. Sì, è un nome di donna. Perché si esprime? No, ma scusi, questo volevo... Ma è Loris, quello sì, è Loris. No, è Lores, sono una femminuccia. Lore, mi perdoni, scusi. Prego, Cruciani, prego. Vada. Faccia star zitto il Capone e l'altra signora con la S maiuscola. Sì, vabbè, il Capone allora, chi è? Parenzo, chi è? Il Capone è quello di Padova, dai. Di Padova, sì, il Capone. Capone, tagliato tutto proprio. Adesso la vediamo allora, a prendere, la riportiamo in corsia, non si preoccupi signora. Ma dai. Le facciamo una bella flebo. vengono delle persone vestite di bianco, la portano in una corsia, la tengono sul letto, le fa una piccola flebo e per una settimana si fa una vacanza in questa bellissima struttura, un letto dove c'è davanti una cartella, una cartella sanitaria. Che mestiere fa lei, pappagallo? Scusi, però signora Lopez, lei ancora passa la serata a dire che ha bevuto un bicchiere di più oppure che li manda la ambulanza. Ma che cavolo di mestiere fa lei, pappagallo? No, scusi, però signora Lopez, io sono curioso di una cosa, perché uno passa 10 minuti al telefono in attesa, eccetera, sì, esatto. E per dire un qualcosa, un minimo di sensato. Lei voleva dire a Parenzo che è un cappone. No, se mi lascia parlare, perché è inutile che io parli quando voi siete ammazzati. Scusi, però posso congedare i mitici Ridillo con una canzone ultima. Con una canzone conclusiva, no, un'ultima, proprio una parte. Anche per tranquillizzare la signora, che mi sembra piuttosto agitata. Facciamo una canzone. Signore, parla posso di amore. Tranquillizzare la signora? Ma non so se sia il caso. Io questa è una pernacchia per lei, signora Lores. Io sono uno che potrebbe vivere anche fino a 100 anni. Perché mangio bene. Mangio amore. Buon appetito. Che bontà. Cibati di baci miei. Guarda, mi viene voglia di mangiare. Mangio amore. Come antipasto. Che bontà. Pane, amore, fantasia. L'appetito viene mangiando adesso. Allora, le viene voglia di dare un bacio a Parenzo? È scomparsa, signora Lores. È scomparsa, vabbè. Grazie Ridillo. Luca da Varese. Pronto? Vada. Buonasera. Sì, voglio finire io, 8:40. Sì, una cosa velocissima. Volevo fare una precisazione sulla famiglia Bossi. Sì. L'ultimo, il terzo, è il figlio, si chiama Sirio, è il terzo figlio della seconda moglie. Sì. Ecco, 3 anni fa è successo questa cosa, poi uno dice se manovra o non ho i soldi pubblici. A un certo punto, finita la terza media alla scuola Bosina, ha iniziato la prima superiore in una scuola privata al Rosetum, linguistico, dove è stato bocciato. Allora? Nell'estate, con gli 800.000 euro, qui a Varese lo sanno tutti, è stata finanziata la scuola Bosina per far partire una scuola linguistica dove in realtà in classe erano in 7 il primo anno. Sì, sì. Ecco, la cosa strana è che non si è capito a Varese come mai in un mese e mezzo, 2 mesi hanno messo in piedi un linguistico, che potevano mettere in piedi un scientifico, un istituto tecnico, dove stranamente si è trasferito, poi è partito il terzo figlio. Cioè lei mi sta dicendo che hanno creato una sorta di scuola ad hoc per lui? Con gli 800.000 euro del primo finanziamento la scuola Bosina è partito il linguistico ed è accertabile. Vabbè, non è che fosse una scuola riservata a una persona, è che c'entrava solo lui in questa scuola, no? Era riservata a 7. Era riservata? A 7 persone, perché il primo anno del linguistico sono partiti in 7 alunni. Vabbè, un nuovo filone. Faccia silenzio un attimo. Giuseppe, lei ha detto che... No, è linguistico, è quello che sì, mi turba. Sì, lo so. Giuseppe da Cuneo, però lei ha detto che risponde, come dire, quello che le viene detto fa. Ma io ho fatto la scuola Varese, di linguistico me ne intendo. Vabbè, quello è chiaro. Giuseppe da Cuneo. Grazie Luca, no, ma questo è un filone interessante, sì. Perché il filone insomma dei finanziamenti della Lega, dove sono arrivati le scuole, eccetera. Giuseppe da Cuneo. Buonasera dottor Cruciani, potrebbe ricordare al suo collega dottor Parenzo che vorrebbe far certificare i bilanci dei partiti? Io vorrei ricordargli che erano certificati anche i bilanci della Parmalat, abbiamo visto come. Ma che c'entra? Ce ricordiamo banche americane che avevano la tripla A il venerdì e lunedì mattina c'erano d'accordo. I dipendenti che andavano via con i tavoloni. Ha ragione Giuseppe. Ma bilanci Paperino e lui vuole fare certificare i bilanci scusi, dei partiti. Ma le agenzie, un conto sono come funzionano le agenzie di rating, un conto è dire che è impossibile trovare un meccanismo per certificare i bilanci. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Sei a pronto Raffaella? Pronto. Va bene Giuseppe, allora però ha ragione Giuseppe, ha ragione Giuseppe, perché ha ragione Giuseppe, perché? Perché Parenzo, non basta la certificazione tu cur. Ma no, ma poi le società di revisione hanno conflitti di interessi spesso con le aziende, quindi, quindi... Allora sentite egregi dottori, no, io dopo il crollo della Parmalat ho dovuto rifarmi le tette. Vabbè, questo però è una notizia. Questo diciamo, è una cosa che non ha rilevanza, come dire, no? Urbi e torbi, diciamo, può rimanere così. Va bene, Giuseppe, sì, ha ragione lei, guardi, adesso siamo però alto e basso. Poi ci sono anche questi drammi, no? Cioè di persone che devono. Sì, però è vero, però... cioè, Parenzo, cioè, non è che la certificazione da parte di un'agenzia significa qualcosa, non significa nulla. Se uno vuole taroccare il bilancio, dipende da quello che ti porta, la pezza d'appoggio che ti porta. Su, dai. Il problema non è quello. È diverso dalla... Sì, ma è diverso dal fatto di certificare. Il punto è, io non voglio finanziare il convegno della corrente di Fioroni e della corrente di Ferrero, non me ne frega niente. Ma non è così. Se li vadano a cercare loro, io i soldi non glieli voglio dare. Al massimo posso fare un piccolo rimborso elettorale, un minimo rimborso elettorale, minimo, e poi si cerchino i soldi dai privati. Ma no, però riconosci. Traffico, traffico. Riconosci. Comando io, traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24. Proviamo a chiamare una persona, le solite telefonate in chiusura, magari si tira fuori qualcosa oggi da una giornata un po' convulsa, eh. Vediamo un po', vediamo un po'. Intanto Paolo da Parma. Paolo? Paolo, mi sente? Qui dal telefono. È in bagno. Non risponde. Non risponde, non vi posso dire chi è. Non risponde. Possiamo svelarlo ora? No, ma non, nemmeno domani. Beh, forse lo capiranno domani se risponde domani. Sì, ma non risponde. Mannaggia. Peccato, perché veniva fuori un bello scherzo, non so. No. Vabbè, potrebbe suonare fino all'infinito il telefono qui. Vabbè, Paolo da Parma allora, Passiamo il telefono, Risponde l'operata Milano Est 1218. Ma perché opera adesso? Questa non è male però. Questa è ottima. Vedi che Maurizia quando è? Quando è inquadrata, bravo. Perché ho paura. No, ma che paura. No. Allora Paolo dica. Poi Giuseppe Cruciani, lei? Alla conclusione di questa trasmissione svelo una cosa straordinaria, che è la segreteria telefonica di Maurizio Paradiso, che mi farà cacciare da questa radio definitivamente. No, ma non facciamolo, scusa. Avete registrato la mia segreteria? Beh, sì, per favore. No. Allora, Paolo da Parma, Paolo. Giuseppe Cruciani. Sì. Pronto? Dica. Mi sente Giuseppe Cruciani, buonasera a lei. Grazie, allora sono qua. Innanzitutto faccio un piccolo spot io, però viva la Porsche, viva la Porsche. Ma adesso no, che c'entra? Ma che bisogno? Comunque va bene, se lo dice lei, va bene. Cruciani, poi diranno che... Ecco, si sono messi d'accordo. Volevo dire una cosa, posso? Sì. Allora, volevo parlare di Renzo Bossi. Io voglio difendere, io non sono della Lega, sono di sinistra, voglio difendere Renzo Bossi per dire che mi meraviglio che una famiglia adesso prenda il figlio e non lo difenda in questo momento qua. Renzo Bossi non è che bisogna difendere per forza la famiglia. No, ma mi lasci dire, non ha chiesto Renzo Bossi di fare il consigliere. Sì, l'avrà chiesto pure lui. No, non l'ha chiesto lui, incapace di intendere di volere tutto l'apparato politico a metterlo lì. Ma quale adesso apparato politico? È stato un padre. Tutte le colpe su di lui quando sapevano tutto questo povero ragazzo qua. Mi meraviglio che un padre pubblicamente abbia chiesto scusa dicendo che non sapeva niente del figlio. Ma è politica, la famiglia non c'entra nulla. È politica, che c'entrano gli affetti? Qui è un fatto politico, anzi Bossi si è dimostrato responsabile, è un padre responsabile. Lui, e mi meraviglio che adesso dietro hanno scaricato tutte le colpe su un ragazzo che non è all'altezza. Sono le distorsioni di un sistema in cui un padre addirittura candida il figlio, altro che è stata una conclusione più che dignitosa. Vediamo un po' la riflessione. Le, di- l'editoriale di Maurizio Paradiso. Al Corriere hanno pane bianco e allora, noi abbiamo la signora. Allora, si metta comoda, allora, editorialista. Allora, il trota avvocato ha bloccato il ciclo ormonale dei salmoni. Primo, secondo, Bossi che voleva dividere l'Italia in due ha sposato una terrona, quindi basta, chiusa. Nico da Udine, editoriale conclusivo. Nico da Udine, buonasera. Ah, buonasera a voi intanto, mi associo al primo ascoltatore che ringraziamo anche la Forza colpa di Parenzo di sentire questo programma. Io volevo soffermarmi un po' sulla Lega, no? Il discorso è questo, loro stanno cercando di lavare il popò con la pipì in questo caso, no? Perché anche lei però non è che mi sembra, anche lei usa un linguaggio, come dire, no? Metaforico proprio, eh? Vabbè, insomma, praticamente sentivi oggi praticamente Maroni che dice Bossi è stato raggirato, è stato fatto, insomma si devono dimettersi tutti perché hanno preso i soldi, l'abito di gallina, hanno preso i soldi della gente. Vabbè, insomma, guardi, oggi qualche giornale scrive che Maroni sapeva tutto, Belsito è stato espulso, lo stesso Belsito in varie interviste e anche dai verbali dei magistrati sembra che dica addirittura che Tremonti gli ha consigliato tra gli altri di investire soldi in Tanzania. Certamente la questione della Tanzania non è che la sapesse solo Belsito, questo mi pare questo però mi pare strano evidente. Che è stata espulsa la Mauro e invece Bossi Junior salvo. No, ma poi oggi Libero dice no, Maroni non può fare segretario, quindi c'è una bella battaglia nella Lega, ci saranno sorprese secondo me. Va bene, allora Luciano da Bologna, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Sì, senta, vada. Io ho una proposta un po' provocatoria, forse neanche troppo democratica, però gliela butto lì, voglio il suo parere. Perché non mettiamo una soglia sul quoziente intellettivo delle persone che assolvono cariche pubbliche? Ecco, io ecco la stronzata delle 20:52, su. La stronzata delle 20:52, ho visto l'orario, 20:52 arriva dalla stronzata. Va bene, Luciano, non c'è giorno problema. Ci vuole in genere, sì. Non c'è problema, la cioè sua succede. È nel podio. Guardi, nel io podio. ne dico tantissime tutto il giorno, per però cui se lei ne ha detta una alle 20:52 può essere contento. Cioè, allora guardi, dottor Cruciani, ecco qua la il signore seconda. Ha un cervello talmente piatto che può essere spedito per fax, giusto? Questa è buona. Capito Luciano, guardi, mettere un limite al quoziente intellettivo di chi accede alle cariche. Abbiamo visto, li eviteremo. Tipo Renzo Bossi. Scusi, come si fa? Tra l'altro oggi Scilipoti ha fatto un comunicato eccezionale, eccezionale su una vicenda che riguarda, perché è stato sorpreso da alcuni fotografi mentre dormiva alla camera e lo hanno messo sul sito dell'Espresso, anzi forse pubblicato sull'Espresso, e lui si è arrabbiato e ha mandato tutta una lettera in cui spiega che tipo di problema ha con il sonno perché prende una medicina, una cosa pazzesca. Beh, invitiamolo, scusate. No, lo vorrei leggere ma non c'è tempo qua. Lauro dalla provincia di Milano. Achille Lauro? No, non è Achille Lauro, è Lauro. No, è Lauro di nome, non di cognome. Ah, pronto? Sì, vada. Allora, io cercherò di essere breve, vi sto girando almeno soltanto delle 20 qualche cosa. Se voi voleste essere conseguenti con tutto il cancan che fate, io vi sento volentieri, siete simpatici, ogni volta vi spengo mi fate incazzare. Allora, non proprio come il signore poco fa che ha detto di portarli al mercato rionale, però dobbiamo far sentire, essere propositivi e cercare di fare una proposta in un paese disperato che non riesce ad avere un unione consumatori che chiama lo sciopero del rifornimento o di benzina, ecco, perché non lanciate voi? Mi piacete quando dice basta il finanziamento dei partiti. Allora, diciamo, il 3 maggio, il 6 giugno, il 30 aprile, troviamoci chi vuole sotto il municipio del rispettivo comune in tanti a far sapere a questa gente, fargli capire che questi soldi non li devono avere perché siamo proprio stufi di pagarli. Va bene Lauro, grazie. Grazie a lei. Allora un attimo solo. Parenzo, io rido, mi scusi dottor Cruciani, c'è scritto Bossi dice. Sì. Me lo ripassa? No. Allora, parolacce però, Non è una trota, è un piranha. Cioè, mi è venuto veramente da ridere pensando. No, allora, io sono il classico esempio vivente che si può vivere una vita serena anche senza Maroni. Non è male. Allora, senti, per concludere questa cosa qui di Scilipoti, l'onorevole Scilipoti ritratto nella foto mentre riposa accanto a un altro deputato è affetto da circa 20 anni da emicranie persistenti. Al momento dello scatto rubato aveva appena assunto una compressa di ergotamina. Scilipoti. Per ulteriore chiarezza è opportuno sapere che il deputato era in un momento di pausa dei lavori della commissione, essendo circa le 14:30, e il salottino dove è stato fotografato è l'unico luogo dove potersi concedere qualche attimo di relax. È il numero uno, grazie. A domani 18:30, ciao. Grazie. Ciao, sono Maurizia. Sai che differenza passa fra il culo e Monti? Il primo scoreggia, il secondo scoraggia. Ciao, lascia un messaggio.